la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Sono le 16:29 primi e 34 secondi. Ed eccoci qua in diretta. E come sempre, con Oscar Giannino che vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast. E vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, qui a radio24.it. Scrivete sempre per tutto ciò che ritenete opportuno e anche per continuare a darci la vostra disponibilità a intervenire nella serie di trasmissioni, di cui una è questa di oggi, con le testimonianze Italia non per giovani, sia per la formazione che per il lavoro, sia chi se n'è andato è soddisfatto, chi se n'è andato e non è soddisfatto e torna, chi invece fatto l'esame comparato di quello che non gli torna in Italia decide comunque di restare, il come e il perché, ma raccontato dalla vostra voce a tutt'altro rilievo, sperando che poi alla fine riusciamo davvero in qualche modo attraverso di voi a riattirare l'attenzione verso un pezzo fondamentale di ciò che nel nostro paese non funziona. E non è solo la finanza pubblica, non è solo il basso PIL e l'arretramento del reddito pro capite, ma è il fatto che ciascuna di queste tre grandi problemi italiani in realtà colpisce in maniera asimmetrica e ohimè colpisce in maniera concentrata appunto i giovani e impedisce l'ascensore sociale, ciò che in Italia funzionava un tempo, per cui i figli di coloro che stavano alla base della piramide dei redditi e del patrimonio avevano più possibilità di migliorare nell'arco della propria vita, mentre oggi siamo regrediti da questo punto di vista e quindi la percentuale è tornata a salire e quindi si sta peggio. È un problema di formazione del capitale umano, è un problema di come è strutturata l'offerta formativa nel nostro paese, è un problema di accessibilità tardi e a bassa retribuzione al mercato del lavoro. Sapete che l'esame cumulato degli andamenti dell'occupazione in questi due anni di decontribuzione di Jobs Act in realtà premia gli over 50, da una parte perché le imprese preferiscono, con molti disoccupati a disposizione, pescare tra quelli che hanno le capacità già formate, e poi però per effetto anche della riforma Fornero di innalzamento, quindi dei requisiti di età anagrafica per maturare la pensione. Ma fatto sta che qui il problema c'è e come, e infatti anche in questa puntata appunto grazie a alcuni dei tantissimi che hanno scritto due testimonianze per dirci dove sono, perché sono lì e che cosa questo ha insegnato loro rispetto a ciò che in Italia funziona diversamente, funziona peggio, si potrebbe cambiare, oppure rispetto a ciò che andando altrove si è toccato con mano, di cui la decisione di un pezzo di vita funzioni meglio. E cominciamo innanzitutto, io molto ringrazio di averci scritto e essersi reso disponibile, con Renzo Zucchiati. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Ci diamo formalissimamente del lei, va benissimo. Allora, da dove ti stiamo? Noi dove ti abbiamo chiamato? In Lettonia in questo momento. In Lettonia? A Riga. A Riga. Da che parte d'Italia vieni tu? Dove ti sei formato? A Udine. Io arrivo dal Friuli. E 10-12 anni fa mi sono spostato nel Baltico, trasferendo un'attività che avevamo con un altro socio appunto in Friuli, decidendo di trasferire in toto tutta l'attività nei paesi baltici. Difatti abbiamo due aziende, una a Vilnius con dei soci lituani e una società a Riga. Oh, ma la scelta, tu e il tuo socio, l'avete fatta a tavolino guardando a quali condizioni, o perché c'erano precedenti legami, interessi? No, è stata fatta a seguito di un'esperienza di 7-8 anni di intrapresa in Italia. In che settore avevate la società? La società in che cosa è attiva? La società lavora nella distribuzione di prodotti per il florovivaismo e prodotti per il riscaldamento, biopellet per dire. Biopellet. Per chiamarlo. Sì. Sì. E in quei 7 anni in cui l'avevate avviata in Italia, cos'è che non funzionava? Sostanzialmente quello che tu riuscivi a monetizzare alla fine dell'anno di lavoro. Cioè. una serie di problemi che tu dovevi gestire con l'azienda dal punto di vista manageriale, quindi di rapporti con i fornitori, con i clienti, eccetera. Ma poi arrivando a tirare le somme a fine anno, tu avevi un drenaggio fiscale, contributivo e di vari oneri a cui tu non ti rimaneva attaccato niente, cioè tu lavoravi per finanziare altro, non avevi risorse per l'impresa, e la nostra impresa faceva utili, ha sempre fatto utili, però il problema è che il vantaggio rispetto a un'impresa che faceva la mia, cioè la nostra stessa attività, ubicata in un altro posto della comunità europea, quindi poteva essere in Polonia, in Austria o nel Baltico, in Ungheria, in Slovenia, aveva un vantaggio fiscale e notevole, di anche 40 punti percentuali sul reddito netto di impresa. Anche 40 punti, che insomma anche è una bella punti. Differenza, per così dire. E beh, il primo anno in Lituania, in Lettonia, cioè la massima percentuale di tassazione, pagammo il 10%, poi durante la crisi 2009-2010 ci fu un incremento sulle tassazioni dei dividendi e si arrivò al 22%. Ma noi in Italia, sommando tutto, ci fu un anno che calcolai il 72%. Tu hai detto anche che l'anno peggiore su 120.000 euro di utile di impresa in Italia, tra sommando tutte le aliquote, tutte le diverse imposte, quindi sul reddito lordo d'impresa, poi l'IRPEF, l'IMS, l'anticipo IRPEF, eccetera, eccetera, praticamente non restò niente. Eh no, perché dovevi, noi comunque per politica aziendale finanziamo l'impresa con 10, 15, 20% dell'utile, lo lasciamo sempre nell'azienda, e quindi se tu finanzi, paghi le tasse, anticipi le tasse e finanzi l'impresa, cioè… Dopodiché naturalmente aggiungi che nel tempo e con la crisi le banche, per smobilizzare i crediti, chiedevano sempre di più, si spinsero a chiedere tra il 5 e l'8%, gli studi di settore risultavano congruo ma non coerente, quindi partita col fisco sempre aperta. Bravo, questa era una delle cose che mi fece dire basta, perché un anno, cioè l'ultimo anno di attività, diciamo di bilancio, in Italia mi ricordo che pagammo un sacco di tasse, però eravamo in questa condizione, congrui ma non coerenti, quindi per il fisco, esatto, non bastavano, esatto, quindi bisognava adeguare, e quindi cioè che dov'è, cioè che rapporto c'è con il fisco, che rapporto, che cos'è fare impresa così, cioè non è mai finito, no? Cioè, tu hai sempre una questione aperta che non sai mai quando andrai a chiudere, per cui non ha senso un rapporto del genere. Dopodiché la lettera dice, per esempio, in Estonia, quando prendevamo in considerazione diversi paesi, la tassazione totale era del 23%, mentre in Italia mi toccava leggere che erano sfottuti perché avevano la flat tax come se fossero dei barbari. In quegli anni c'erano, siccome dovevano entrare nel circuito europeo, era l'unico paese che adottava la flat tax, cioè introdusse la flat tax, anche tutti quanti a dirgli ma tu non pagherai mai i debiti, non pagherai mai i prestiti, e al che si è dimostrato il contrario. Adesso loro sono uno dei più performanti stati d'Europa in termini di PIL, in termini di crescita e in termini di tassazione. Secondo l'OCSE la tassazione estone è la migliore nel 2016. Quindi non lo so come si fanno i conti, però questa è la situazione. Dopodiché fai un lunghissimo altro esempio. Per esempio i tribunali civili per un'impresa che a quel punto ha da incassare le partite debitorie dei clienti, fatto il paragone. Beh, noi teniamo aperta l'azienda perché avevamo delle partite da incassare in Italia e quindi noi avevamo due contenziosi in tribunale civile di forniture non pagate, al che insomma per una serie di cose, questa cosa tirò avanti 5-6 anni. E poi ne uscimmo soccombenti perché per due differenti motivi, ma entrambi i casi soccombenti, pur avendo dimostrato di aver fornito, di non aver incassato e avendo pagato anche l'IVA sulle fatture elevate, al che liquidammo l'azienda 2 anni fa, quindi cioè, l'azienda non è fallita, ma è semplicemente stata chiusa e dimenticato. Visto che non riusciva neanche a recuperare le partite debitorie dei clienti. Dopodiché dici, il rimborso IVA in Lettonia e Lituania 40 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Eh sì, sulla dichiarazione Intrastat noi in 40 giorni abbiamo il rimborso dell'IVA. E questo non occasionalmente, cioè questo esiste da 10 anni. Io non ho mai avuto un problema o dover sollecitare i pagamenti. Può essere successo una o due volte che ci abbiano chiamati a dimostrare qualche documento, ma il tutto si è risolto in un meeting informale, nel senso che qui ti mandano la mail e c'è un tuo referente all'ufficio delle tasse e ti dice: senti, vieni qui e porta questo faldone che dobbiamo vedere, perché dall'altra parte non ci risulta che ci sia una dichiarazione su questo movimento di merci. Quindi si fa un meeting di un quarto d'ora e dopodiché è sbloccato e pagato. Quindi cioè, io ho questa esperienza, non posso dire lo stesso dell'Italia. Dopodiché tu prosegui e dice: noi in parole povere in questi anni, sì certo, visto che le nostre imprese fanno utili, quindi sempre sono soggetti a imposte, però la media è appunto del 23% o poco più, noi abbiamo potuto molto finanziarci e crescere. E poi aggiungi: è un peccato naturalmente considerare che, visti gli anni e ciò che abbiamo fatto qua, questo significa più o meno che in 10 anni o poco meno abbiamo lasciato sul territorio baltico quasi 1 milione di euro di imposte. E aggiungi: poteva essere tutto in Italia. Eh beh, questo alla fine, no, della fiera uno fa due conti e dice: vabbè, se ti fanno lavorare in un altro modo, perché devi venire a pagare le tasse qui? Le paghi in Italia, stai in Italia. Però non è possibile, non è, cioè, in Italia la nostra esperienza è che non ti rimane niente, cioè tu perdi tutto quello che produci, non c'è niente da fare. Ma non avete mai avuto un dubbio poi stando lì? No. Zero. No, proprio no, perché switchi la mente in un altro modo, cioè almeno... io penso che va bene, siamo diventati cittadini europei, ok? Cioè, siamo europei, per cui un posto vale l'altro. La gente è gente, no? È gente qui come in Portogallo, come in Spagna, come in Italia, come in Svezia, cioè tutti con il loro fardello e le loro idee. Per cui tu sai che in Italia la percentuale di delusi che tornano a farsi sedurre dal nazionalismo, dai dazi, dalla separazione, no Europa, no Euro, sono tantissimi. Quindi oggi avrei dei dubbi sul fatto che la maggioranza degli italiani la pensa davvero come te, che c'è un problema di cittadinanza, che la cittadinanza europea è comune e non gli italiani contro i tedeschi, contro i francesi e così via. Beh, certo, nel momento io penso che se tu non hai successo all'estero non ha senso che rimani all'estero, perché comunque sei forestiero e quindi te ne torni. Ma è mai, ma... è mai pesato qualcosa il fatto che voi foste italiani lì nel, nel contesto del, dello sviluppo delle relazioni d'impresa, clienti, fornitori, vendite all'estero, visto che siete un'impresa che poi vendete dal Medio Oriente, ma è iscritto a, a tanti altri paesi. È mai pesato questo fattore della vostra italianità? No, io non ho mai sentito questo... questo peso o un problema. Devo dire che invece quando era, siccome i fornitori sono gran parte tedeschi o svedesi o danesi, quando eravamo in Italia era peggio. Era bravo, hai capito? Quindi diciamo che è anche migliorata la situazione. Vi ha agevolato, stante il tipo e la nazionalità delle imprese fornitrici, il fatto di essere sul Baltico e non di essere in, in Friuli. Ma per quello, se ti facessi la domanda, ma i tuoi figli, i nipoti, la tua famiglia, dove vorresti che crescessero? Anche qui, cioè io non ho pregiudizi in questo senso, ripeto, ci sono buone cose qui come, come in Italia, come sono cattive in Germania e come sono buone in Francia, cioè... La differenza è che fare impresa lì c'è molta meno ostilità dello Stato, punto, questo è il punto. Ma al momento sì, se l'Europa non rovina tutto, tutto creando... non so che cosa, però Lituania e la Lettonia hanno un debito su PIL del 40%, 45% adesso un po'... rispetto al 133%. Quindi diciamo che la Lettonia sta ripagando i 7 miliardi e mezzo che ha avuto di finanziamento da, dalle istituzioni mondiali nel 2009, cioè mi pare che sia rimasto qualcosina. Il PIL ricresce, certo, hanno avuto 30% di... Una bella botta anche loro. Una bella botta, però era un PIL un po' così costruito sul real estate. C'era una bolla immobiliare molto forte. Esatto. Però ne sono venuti fuori in fretta. Allora, io, cari ascoltatori, come avrete capito, questa è una, sono decisioni prese negli anni, cioè stiamo parlando, il nostro interlocutore Renzo è nella fase centrale della sua vita, è un uomo maturo, non è un giovane, però io l'ho scelto comunque e l'ho ringraziato per questa testimonianza, perché primo è scevra da pregiudizi, secondo si tratta di dati reali, misurati su un tipo particolare di impresa, prima condotta per anni qua, poi liquidata qui quando neanche riusciva a incassare i crediti per via giudiziaria e poi realizzata là. Ecco, esperienze come queste sono, per così dire, parlano da sole su cosa è il peso del, delle tasse alla pubblica amministrazione nel nostro paese comparate ad altri paesi europei. Io do un abbraccio e un ringraziamento ovviamente a Renzo per la sua testimonianza, i miei migliori auguri. Grazie. E voi però pensateci quando vi dicono che non c'è spazio, non c'è modo per alzare le tasse, che la nostra spesa è stata già costretta fino all'inverosimile, eccetera eccetera. Poi vi possono dire che possiamo cambiare moneta e che quella sarà la risposta. Temo che un paese debole come noi, trasformatore, non sarà con la moneta che svaluta, che risolve i suoi problemi di bassa produttività, altissima spesa, altissime tasse. Grazie Renzo, noi torniamo tra un minuto con un'altra testimonianza. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, cari ascoltatori, e la seconda testimonianza, ci spostiamo, per così dire, non rimaniamo in Europa, nell'Europa baltica, come capitava con Renzo, ma abbiamo collegato con noi, io lo ringrazio per averci scritto e se si è reso disponibile oggi, Marco Rigobello. Buon pomeriggio. Buonasera Oscar. Da dove ti abbiamo chiamato? Dove sei? Al momento sono a Denver, in Colorado. Sei a Denver in Colorado. Dunque, che parte d'Italia, in che parte d'Italia sei nato, ti sei formato? Io sono nato in Veneto, in provincia di Rovigo. Mi sono formato a ingegneria meccanica a Bologna e poi dopo 6 anni di esperienza lavorativa ho fatto anche un'esperienza di full time MBA tra l'Italia, Milano, al Politecnico di Milano e gli Stati Uniti d'America a Miami. Ahimè. Quindi da questo punto di vista il Politecnico di Milano, che ricordiamo insieme al Politecnico di Torino e a un altro paio sono considerati nei ranking internazionali le migliori facoltà di ingegneria che siano nel nostro paese, quindi non hanno un grande problema insomma poi di assorbimento occupazionale dopo. Però perché quei sei anni successivi non sono stati soddisfacenti? Perché fu il Master International Business a Miami a farti pensare che era meglio altrove? Ma io volevo, diciamo così, dopo l'esperienza lavorativa in Italia in piccole e medie aziende del mondo del condizionamento, volevo comunque, diciamo, formarmi come manager. Da qui avevo pensato di fare un full time MBA e allo stesso tempo, visto che comunque lavoravo per e con l'estero, volevo scoprire il mondo e gli Stati Uniti mi hanno sempre attratto. Da lì, diciamo, questa esperienza di long exchange mi ha consentito di stare negli Stati Uniti per 8 mesi e prendere anche un altro master in international business. E dopodiché? Dopodiché ho detto, perché non provo a stare negli Stati Uniti un paio d'anni, a vedere che cosa offrono, come sono, a scoprirli più dal dentro. E ho iniziato con aziende, diciamo, a contattare aziende italiane e un'azienda, la Cannon, mi ha offerto un lavoro. L'azienda adesso è in Pittsburgh, in Pennsylvania, e io lavoro in questa azienda ormai da 5 anni. È un'azienda di che tipo? Di proprietà familiare e proprietà e gestione oltre che proprietà familiare oppure no? Sì, assolutamente. Proprietà e gestione familiare. I proprietari sono due, uno di essi è anche l'amministratore delegato. L'azienda è relativamente grande, circa 1 migliaio di persone, sparse un po' in tutto il mondo, con piccole e medie filiali, sia produttive che solamente commerciali e di service. E quella negli Stati Uniti quanta persone ha, quanto fattura? Noi siamo circa 60 persone, facciamo a seconda degli anni perché abbiamo progetti medio-grandi, possiamo fare tra i 25 e i 30 milioni di dollari. Mm-hmm. Siamo circa completamente indipendenti perché abbiamo anche la manifattura qui e produciamo secondo i canoni e gli standard americani. Quanti italiani lì? Siamo partiti, diciamo, prima di me ce n'era solo uno, il presidente, che comunque è un'esperienza internazionale più che ventennale. E poi ho iniziato io, quindi due, e recentemente abbiamo assunto anche un terzo. Oh, allora, bilancio di questa esperienza, iniziamo nella comparazione, quella che ti ha spinto tra i paesi a dire ma io vorrei rimanere negli Stati Uniti. Questo è un po' un dubbio, perché ancora io ho il dubbio di rimanere qui o di tornare in Italia, perché da un lato a livello lavorativo mi trovo benissimo. Siamo circondati da americani, gli americani hanno completamente un altro modo di porsi, sono molto più veloci, perdono molto meno tempo di quanto non facciano gli italiani in media, e quindi da qui la produttività è molto molto molto alta. Però dall'altro è veramente difficile inserirsi in un contesto dove non si è cresciuti. Culturalmente si pensa che gli americani siano simili a noi, ma in realtà sono completamente diversi. E tu scrivi, a un certo punto, nemmeno io qui dopo anni in USA, Pittsburgh, riesco davvero completamente a familiarizzare con gli americani e a comprendere il loro animo più profondo. E aggiungi, in realtà il mondo da cui tu provieni, cioè quello di manager italiani medi del nord-est, per capirci, leggo testualmente, esatto, non ha esperienze culturali diverse dal ristretto ambito dove ha sempre vissuto. Generalmente parla un inglese medio, ma medio-basso, e soprattutto, questa è la cosa che più mi ha colpito, dici, scrivi, non riesce ad immedesimarsi nelle necessità ed esigenze del consumatore a cui vuole vendere, che è un giudizio pesante, perché si direbbe al contrario che una delle radici del strepitoso successo, prima che la crisi rasasse risultati e utili esistenza in vita delle imprese anche nel nord-est, era proprio quello di aver realizzato in una generazione praticamente il grande passaggio di successo da un'economia agricola e depressa a una diffusione di piccole imprese nel global value chain e nelle catene controllate magari dall'estero, ma con fornitori con una grandissima capacità di rispondere in tempo rapido all'evoluzione della domanda dei mercati anche internazionali oltre che domestica. Invece tu dici il contrario. È proprio questo il punto, perché è vero che magari in passato eravamo rapidi, ma la velocità del mondo è aumentata esponenzialmente e gli americani hanno una velocità nel decidere, nel fare le cose, nel proporsi e nel volere anche quotazioni che noi non siamo più in grado di stargli dietro. Quindi ovviamente dobbiamo ripensare completamente alla nostra organizzazione, alla, diciamo, l'integrazione della supply chain worldwide, per esempio, e soprattutto a formare personale che non è più solo personale di vendita, ma anche personale di project management. Non c'è dubbio, per sviluppare, perché bisogna investire di più e questa è un'altra pecca del sistema italiano, si investe poco. Allora, la lettera aveva molti altri punti e ahimè il tempo è poco. Io non solo ringrazio Marco, ma soprattutto lo ringrazio per la sincerità, cioè lui sta in un'azienda a conduzione proprietà familiare, eppure la lettera e le sue riflessioni sono proprio una critica al sistema della piccola impresa italiana. Per questo io l'ho molto apprezzato, io gli faccio un abbraccio e spero che magari i fatti italiani lo convincano anche a tornare indietro. Continuate intanto con Radio 24, appuntamento con Bella e Sandro Milo domani mattina alle 8:20 e attenti alle 2.